Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Ci rincontriamo finalmente. Ora il cerchio è completo. Quando ti ho lasciato non ero che un discepolo, ora sono io il maestro. Solo un maestro del male, Dart. Buongiorno, non siete al cinema, questa è Radio 24, io sono Filippo Astone, siamo in Fabbrica 2.4, seconda stagione, e siamo di nuovo qui a parlarvi di fabbriche, di economia reale, di produzione, di tutto quello che è concreto, che si tocca e che si fabbrica e che costituisce l'ossatura della nostra economia. Noi siamo quelli delle fabbriche, siamo quelli della tecnologia, siamo quelli che fanno il tifo per l'economia reale, per la produzione e per l'economia italiana. Vi ho fatto sentire il quarto film di Star Wars, dove c'erano Darth Vader contro Obi-Wan Kenobi, perché oggi parliamo di laser. L'azienda protagonista è la LN, che è un'azienda di Firenze che produce laser per uso medicale, industriale e artistico. La produzione di laser, una delle cose a massimo valore aggiunto possibile. E questa azienda ha alcuni singolari primati, per esempio il fatto di avere una redditività altissima, tipo il 10%, e il fatto che il titolo sia cresciuto del 100% in un anno e del 130% in due anni. Dunque, qual è uno dei titoli più redditivi su cui puntare a Piazza Affari? Proprio LN, per dire che l'economia reale, l'economia produttiva ad alto valore aggiunto, ad alto margine, ha anche un valore importante per gli investitori. Di tutto questo ne parliamo con l'amministratore delegato Andrea Cangioli. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, le spade laser voi le fate? Qualcuno ci consigliava di farle. Facciamo qualcosa di simile, utilizziamo il raggio laser per tagliare materiali e per curare persone, però proprio le spade laser non le facciamo, no. Voi producete i raggi laser? Noi produciamo sistemi il cui cuore è dato dalla sorgente laser che emette questo particolare fascio, che è il fascio laser. Sì. Ma che cos'è un laser? Ce lo può spiegare in un minuto ai nostri ascoltatori? È un oggetto inventato una cinquantina d'anni fa. Laser sta per Light Amplification Stimulated by Emission of Radiation, ovvero è un'emissione stimolata di una particolare luce con delle particolarissime caratteristiche, che sono quelle di emettere una luce con una sola lunghezza d'onda e quella di poter essere, diciamo, in sintesi concentrata su una piccolissima superficie per avere un'altissima densità di potenza. La possibilità di fare laser diversi con diverse lunghezze d'onda e di modulare la potenza del laser, l'energia per unità di superficie su cui viene focalizzata, permette le innumerevoli applicazioni che si sono sviluppate appunto dall'anno della nascita fino ad oggi per questo strano strumento che è appunto il laser. Ecco, ma voi siete a Firenze, che ci azzecca Firenze con i laser? Ci azzecca abbastanza, perché Firenze, che è nota per l'arte, per l'umanesimo, il Rinascimento, in realtà è anche un cluster importante di centri di ricerca e di aziende che hanno operato nel settore dell'elettro-ottica. Il CNR ha importanti centri di ricerca qua a Firenze e la prima società europea a produrre sorgenti laser su scala industriale nacque appunto a Firenze, si chiamava Laser Valfibre e, diciamo, in qualche modo fa parte oggi del nostro gruppo. Benissimo, dobbiamo interromperci un attimo per gli avvisi sul traffico e la pubblicità, ma restate con noi perché saprete i segreti dei laser. A fra pochissimo! Fabbrica 2.4. I tuoi poteri sono deboli, vecchio. Non puoi vincere, Dart. Se mi abbatti, io diventerò più potente di quanto tu possa immaginare. Rieccoci qua, Fabbrica 2.4, parliamo di laser e parliamo dell'azienda che li produce ed è fra le più redditive di Piazza Affari, che si chiama LN. Abbiamo qui Andrea Cangioli, che prima ci ha spiegato, Andrea Cangioli è l'amministratore delegato della società, che ci azzeccano i laser con Firenze. Ecco, ma come mai secondo lei il titolo è cresciuto così tanto? Ma perché dopo tanti anni in cui la società era andata sempre bene, ma non benissimo, da 2 anni e mezzo a questa parte abbiamo avviato un processo virtuoso di crescita sia del fatturato che degli utili operativi, degli utili netti, molto importante. E quindi il mercato ha visto che questa società era in grado di crescere e di sviluppare redditi in maniera consistente. Ecco, ricordo agli ascoltatori che il titolo è cresciuto del 100% in un anno e del 170% in 2 anni. La società ha chiuso il 2015 con un fatturato di 217 milioni di euro, in crescita del 20% rispetto all'anno precedente. Per quanto riguarda il primo trimestre del 2016, il fatturato era di 55,2 milioni rispetto a 48,5 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. L'EBITDA è stato di 7,6 milioni rispetto a 5,3, l'EBIT di 6,7 rispetto a 4,4. Insomma, i laser vanno sempre più in alto, anche perché credo che il mercato vi riconosca un valore tale per cui c'è un premium price sui vostri prodotti. E dunque un margine più alto. Sì, diciamo il fatto che noi investiamo tanto in ricerca e continuamente proponiamo sul mercato prodotti innovativi che consentono di fare meglio, in maniera più efficiente, economica, operazioni che in precedenza erano fatte con tecniche tradizionali, ci permette di mantenere una buona redditività dei nostri prodotti, proprio in particolare tramite l'innovazione e il miglioramento continuo delle caratteristiche dei prodotti che offriamo sul mercato. In più avete fatto anche delle operazioni straordinarie che hanno permesso di aumentare la cassa della società e questo il mercato finanziario ve l'ha premiato. Direi di sì, questo lei si riferisce alla cessione dell'ultimo pacchetto che detenevamo della società Cynosure, che avevamo acquistato nel 2002, che poi abbiamo fatto crescere, abbiamo quotato sul Nasdaq, decidendo poi di mantenere il rapporto di collaborazione operativa, ovvero di fornitura, ma di lasciare la posizione di soci, e questo investimento di 16 milioni fatti nel 2002 ha reso più di 100 milioni nel giro di 10 anni e quindi il mercato ha apprezzato questa capacità e il fatto che oggi con circa 65 milioni milioni in cassa abbiamo anche l'opportunità di reinvestire nuovamente la liquidità per un nuovo ciclo di crescita, per una nuova fase di crescita. Ecco, state anche guardando ad acquisizioni? Stiamo guardando sia a investimenti interni per crescere per vie interne il nostro gruppo, che è piuttosto articolato sia per quanto riguarda le applicazioni sia per quanto riguarda le installazioni produttive in Italia e nel mondo, e stiamo anche guardandoci intorno per eventuali operazioni di M&A con grande attenzione, perché devono essere coerenti col nostro modo di lavorare, coerenti con i nostri piani di espansione, quindi guardiamo con grande attenzione, ma certo sempre finalizzando la nostra attività a quella che deve essere una crescita di medio termine, sia del fatturato che della redditività. Ma ci sono dei dossier sul vostro tavolo? Diciamo ce ne sono senz'altro, ma niente di cui, diciamo così, valga la pena in questo momento parlare. Ho capito. Senta, il 65% del vostro fatturato è generato dal medicale e dall'industriale credo solo il 25%, è corretto? Sì, 65-35, sì, corretto. Ah, perché poi c'è anche qualcosa su arte e beni culturali, ma forse in termini di volume e di fatturato è un po' poco. No, lo includiamo nell'industriale. I beni culturali sono a livello di fatturato poco significativi, lo sono tantissimo per quello che rappresentano, per appunto l'unione della tecnologia di Firenze, come diceva lei, con le opere d'arte che a Firenze hanno una delle culle mondiali. Ci piace molto questo settore, ma lo è più da un punto di vista appunto affettivo che non da un punto di vista di quello che poi può effettivamente sviluppare. Ma come mai questa proporzione tra medicale e industriale? Uno si aspetta che laser complessi, affascinanti come i vostri, nelle fabbriche ad altissima tecnologia conoscano il loro massimo impiego. È vero, semplicemente noi nel settore industriale abbiamo seguito alcune nicchie minori, non andando a crescere là dove la competizione era più agguerrita, pur essendo il mercato più importante. Quindi, quali sono le vostre nicchie industriali? Nel nicchie industriali in particolare noi facciamo sistemi per il taglio di materiali plastici, per esempio plexiglass, il taglio di fustelle e sistemi di marcatura per la decorazione di grandi superfici, laddove su tessuti o su pellami si aggiunge valore al materiale trattato grazie alle peculiarità appunto tecnologiche e tecniche che la lavorazione ha per la sua capacità di coprire appunto una grande superficie. Ecco, pensate anche di espandervi in nuove nicchie oltre a queste? Diciamo, pensiamo, ci sono delle nicchie adiacenti, per esempio adesso stiamo guardando con grande attenzione tutto quello che gira attorno al packaging e alle macchine per fare per il packaging, un mercato che per noi è assai interessante e che potrebbe avere degli sviluppi interessanti nei prossimi anni. E del resto questo è abbastanza coerente col fatto che in Italia il packaging e soprattutto le macchine meccaniche per il packaging conoscano il massimo sviluppo mondiale, no? Quindi potreste avvicinarvi a questi soggetti. Anche qui appunto si tratta di offrire le nostre tecnologie, come sempre succede con laser, per cambiare la logica con cui sono fatte le cose. Ora, senza entrare nel dettaglio, ma è un po' quello che è sempre stata la storia del laser. Il laser consente di cambiare la logica tradizionale di una certa lavorazione, vuoi che sia industriale, ma anche medicale, nella misura in cui un trattamento è una lavorazione, cambia la logica, usa il laser per cambiare la metodologia e rendere l'applicazione più efficace, più efficiente e meno costosa. Sento una cosa, ma io penso al fatto che stiamo per vivere una rivoluzione che si chiama Industry 4.0. Ci saranno dei chip e dei sensori montati su ogni componente delle macchine e su ogni componente dei prodotti. Ciò porterà a un monitoraggio continuo, ciò porterà alla mutazione dei modelli di business e ciò porterà anche alla personalizzazione di massa. Cioè ci sarà un numero infinito di varianti, ogni cliente potrà ordinare la sua variante personalizzata di un certo prodotto, di un certo oggetto e tutto ciò avverrà just in time e senza magazzino. In questo scenario il laser forse dovrebbe trovarsi molto bene, perché vuol dire che siccome permette di fare tagli microscopici e molto precisi, potrebbe essere funzionale al discorso della personalizzazione di massa. Assolutamente, assolutamente. La flessibilità è proprio una delle caratteristiche del sistema laser. Il sistema laser, a differenza di un sistema di lavorazione tradizionale, lavora comandato da un computer. Io faccio un disegno su un computer e questo disegno mi viene eseguito senza bisogno di tempi di attrezzaggio consistenti sul materiale che voglio lavorare, che voglio tagliare, che voglio decorare. Quindi ho la massima flessibilità. In teoria con laser posso arrivare a fare un lotto di dimensione zero, di dimensione 1, cioè sostanzialmente. Quindi non c'è bisogno di avere grandi tempi di attrezzaggio e il laser per questo si sposa al meglio con la fabbrica flessibile. È questo che avevo pensato anch'io. Invece nel medicale che cosa fate? Tra l'altro c'è questa cosa abbastanza affascinante per cui il laser rosso serve a colpire le cose di colore rosso e per ogni colore c'è un laser diverso e questo ha applicazioni nel medicale. Eh sì, allora, essendo il laser, la luce laser è un'emissione monocromatica, noi sfruttiamo il fatto che per ogni lunghezza d'onda c'è un diverso assorbimento da parte dei tessuti e certi tessuti assorbono di più una certa radiazione e certi tessuti assorbono di più un'altra. L'acqua viene assorbita per esempio molto bene dal CO2 10,6 micron e quindi le applicazioni dermatologiche si fanno col laser CO2 che viene assorbito molto bene dalla pelle. Le lunghezze d'onda sul rosso vengono assorbite dalle macchie rosse, vuoi un colore rosso di un tatuaggio, vuoi una pigmentazione. Ecco, tra l'altro il laser serve a cancellare anche i tatuaggi, no? Anche quello si può fare, tra l'altro di recente la stampa si è occupata molto di questo, perché abbiamo sempre più persone che si tatuano e sempre più persone che vogliono cambiarsi un tatuaggio fatto per qualche motivo, e quindi un tatuaggio con una serie di sedute il cui numero varia dalla tipologia di tecnologia che uno adotta, può essere rimosso con grande efficacia e soddisfazione di chi si vuole togliere un tatuaggio che per qualsiasi motivo lo voglia fare. Ecco, però poi diciamo una cosa che un po' fa cadere il mito delle cose fantascientifiche: molti dei vostri laser sono utilizzati per la depilazione. La depilazione è un mercato importante, e quindi è un mercato in cui si è passati da una fase eroica in cui la gente si domandava se funzionava o no. A questo punto il laser per depilare funziona perennemente, c'è una riduzione permanente dei peli, permanente, però il problema non è se funziona o se non funziona, ma a che velocità e con quanto tempo e con quanto dolore per il paziente io riesco a rimuovere il pelo. Il dolore dipende dalla macchina, ci sono dei sistemi che sono molto efficaci ma anche abbastanza dolorosi, altri che sono altrettanto efficaci. Ma i vostri sistemi? I nostri sistemi ne abbiamo di tutti i tipi, quelli in cui crediamo e che abbiamo lanciato, in particolare per esempio ne abbiamo lanciato uno ora a marzo, sono dei laser molto particolari che mantengono il livello di dolore per il paziente a livelli bassissimi. E direi che anche questo può essere tra i motivi della crescita del titolo. La devo salutare perché il tempo è tiranno, però prometto ai nostri ascoltatori che torneremo a parlare di laser e soprattutto di laser made in Italy. Grazie, grazie mille. Arrivederci. Arrivederci.